Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi torniamo al punk. E torniamo al punk con un personaggio veramente particolare, unico nel suo genere, un personaggio bruttino, poliomielitico, che arriva al successo e arriva all'era punk in età un po' avanzata, ben oltre i 30 anni, 35. È spiritoso, intelligente, ma anche volgare, odioso, cattivo, provocatorio. Un uomo che resterà alla storia quantomeno per aver coniato uno slogan, che è il titolo di una delle sue canzoni più importanti, che ha fatto epoca: Sex, Drugs and Rock and Roll, il manifesto di un'intera generazione e soprattutto della mia. E il manifesto è stato scritto da Ian Dury. Era come un albergo che da un lato si affaccia su una spiaggia idilliaca, mentre sull'altro si affaccia sulla striscia di Gaza. E questo è l'affettuoso ma impietoso giudizio del figlio di Ian Dury, Baxter. Lui non si faceva illusioni, la vita era dura, lui ne sapeva qualcosa, la sua non era stata per niente facile, segnata da una malattia che lo rendeva molto debole nel fisico. Insomma, la forza andava trovata altrove. Il mio braccio sinistro è quasi inerte e indosso un'imbracatura alla gamba sinistra. Direi che sono decisamente disabile. Decisamente disabile, ma molto abile però nell'affrontare i problemi. Ruvido, tagliente, lui non ha mai avuto problemi a riflettere sulla parte oscura della vita e che lui conosceva bene. Scrivo solo di quello che succede, che non è necessariamente carino, ma è lì. Lui era uno troppo complicato, troppo intelligente per essere gentile, conciliante. Sapeva essere un artista fino in fondo. Non solo era un musicista, ma era anche un buon pittore. Insomma, l'arte, quella che non fa sconti a nessuno, ti ripaga e ti punisce. E gli sconti non li faceva neanche a lui. Suppongo che avessi una mia visuale, una mia idea di che genere di vita, di che stile potessi acquisire. E alla fine per me questo era molto più interessante di qualsiasi altro genere di qualificazione accademica, nonostante a scuola fossi molto bravo in inglese. Ian Robbins Dury nasce a nord-ovest di Londra durante la guerra, 12 maggio del 42. Il padre è un autista della Rolls Royce e quindi spesso è via per lunghi periodi. Raramente lui vive col padre in casa, e anche quel poco finisce quando, dopo un periodo in cui la famiglia si trasferisce in Svizzera perché il padre fa l'autista per un milionario, i genitori si separano definitivamente. Ian torna con la madre a vivere in Inghilterra. La madre è una donna forte, piena di risorse, è una che non si lascia abbattere, è un'assistente sanitaria a domicilio, figlia di un dottore della Cornovaglia. Mia madre aveva una cultura universitaria, era una donna istruita e voleva che io avessi una buona istruzione. Per questo mi mandò prima in una buona scuola elementare e poi in un collegio da privilegiati. Ian e la mamma vanno a vivere dalla sorella di quest'ultima e ogni tanto il papà va a trovare Ian. E le foto sembrano quelle di un'infanzia felice, perché il padre lo visita e non perde occasione di portare Ian sulla Rolls, che però non è sua. E è un bambino sano, lui ha la faccia furba, intelligente, sgambetta come tutti gli altri bambini. Poi un giorno lui e la mamma vanno in vacanza e Ian fa il bagno in piscina e in acqua, si tuffa, fa le immersioni, fa tutto quello che fanno i bambini a quell'età quando hanno dimestichezza con l'acqua, ma inghiotte anche qualche sorso in vasca. Un giorno mi sentii come se avessi un po' di febbre e mi stesi sul divano, e poi ricordo solo di essermi ritrovato in un'ambulanza. Da lì ricordo solo una specie di incubo febbricitante che durò 6 settimane. Mia madre mi raccontò che mi avevano messo vicino alla finestra perché pensavano che non ce l'avrei fatta. Ma il mattino dopo ero ancora lì, perché sono uno tosto. Ricordo che poi ebbi il gesso per 6 mesi. Dopodiché mi mandarono al Celi Heritage Craft School fino a quasi 12 anni. Sono stato lì dentro per 5 anni. Institutionalized. Insomma, Ian ha preso la poliomielite a 7 anni, probabilmente dall'acqua della piscina. Siamo nel 49, il Canada e l'Inghilterra sono funestati da un'epidemia di polio che fa più di 40.000 vittime. Ian Dury è una di queste e va a un passo dalla morte. Dopo il primo periodo trascorso in ospedale, viene mandato in un istituto dove viene insegnato ai disabili a badare a se stessi, eventualmente a imparare anche un mestiere, insomma, per non gravare sulla società e il pragmatismo anglosassone. Ma la vera scuola è quella della sopravvivenza, perché Ian impara presto che se vuole uscire vivo da lì deve imparare a diventare un duro. È una lezione che ti segna per sempre. Il falco e il gabbiano. Ian Dury ha contratto la polio a soli 7 anni con l'acqua di una piscina, viene mandato in un istituto per bambini con disabilità che si rivela essere duro e spietato come un riformatorio. Una vita dura, piena di soprusi, di violenze, forse anche sessuali, come a volte lui ha lasciato intendere. I was bullied and beaten up. Sono stato picchiato e vessato di tanto in tanto. Non ero abituato alla violenza, ma in questo posto esisteva la legge della giungla. Uccidere o essere ucciso. Sono morto molte volte, ma dopo un po' mi sono abituato a morire. Mi ricordo di un tipo grande e grosso che aveva l'abitudine di sputarmi in faccia quando mi vedeva. O da dietro un angolo mi saltava addosso. Non ci potevo fare niente. Era molto più veloce di me. Alla fine fu espulso dalla scuola per eccessiva violenza. Era uno storpio. In un luogo così, in un istituto degno di un racconto di Dickens, la sopravvivenza si misura in millimetri, cioè quelli che servono alla pelle per inspessirsi, quel tanto che ti permetta di non sentire più niente, nei colpi, nelle ingiurie. E forse molta della durezza che Dury manifesterà poi nella sua carriera proviene da questi luoghi. Forse il gusto per il macabro, la cattiveria, la capacità di individuare in pochi minuti il punto debole di chi gli sta di fronte per colpire senza pietà, derivano proprio da quelle battaglie. Però Dury non è solo questo, c'è anche una finezza di pensiero, la capacità di usare le parole per esprimere sensazioni. La madre Peggy sa che il figlio ha delle qualità e fa di tutto per svilupparle. Lo manda in collegio, non uno dei più prestigiosi, ma con una sua solidità borghese, diciamo. Forse però è proprio quello che non interessa a Ian Dury. Non ero felice lì, mi sentivo come un pesce fuor d'acqua. E lui è l'unico disabile in mezzo a 800 alunni, è lui che ha imparato la lezione dell'istituto precedente e che utilizza le stesse violenze che ha subito, come sempre accade. Storce i soldi ai compagni più piccoli minacciandoli con l'acciaio che gli sorregge la gamba paralizzata, fa lo sbruffone, viene continuamente messo in punizione. Insomma, è diventato lui il bullo. E terminato il collegio, finalmente sceglie di fare quello che gli piace veramente. Si iscrive all'istituto d'arte, dove studia pittura con un celebre artista pop, Sir Pete Blake, che qualche anno dopo realizzerà la copertina di Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band dei Beatles, quella con tutta un sacco di gente, la copertina rossa mitica. E poi ne farà anche molte altre, e con lui nasce un rapporto di stima, di amicizia. Forse grazie all'esempio positivo di Blake, Ian Dury inizia anche a prendere in considerazione un lavoro per bene, l'insegnante di arte. Nel frattempo si sposa con una sua compagna di corso, Betty, ha una figlia, Jemima, che nasce nel 69, poi un figlio, Baxter, del 71. Ma già dalla nascita della bambina lui inizia a tradire la moglie con le studentesse. Era interessante vedere come le ragazze impazzissero per lui. Ricordo una ragazza in particolare che faceva di tutto, era presente a ogni concerto. Quello che abbiamo sentito è il giornalista e DJ irlandese Fallon, BP Fallon, molto amico di Ian Dury, testimone delle sue conquiste, che lui fa forse anche per provare a se stesso di non essere un mostro. Ma non sono solo le donne che gli interessano, insieme alla pittura lui sta cominciando a interessarsi alla musica. La pittura e la musica erano legate. Ci sono decise vibrazioni che provengono da qui in una maniera davvero eccitante. E così agli inizi degli anni 70 lui mette su una band coinvolgendo gli studenti degli istituti dove lavora. Russell Hardy, il pianista, ricorda bene l'approccio di Ian Dury. Si sedette e disse: voglio fare un gruppo di rock and roll, diventeremo milionari. E io gli dissi: mi suona molto bene. Così nascono i Kilburn and the Highroads. Dury canta, scrive i testi, scrive delle canzoni che magari compone suonando un po' rudimentalmente la batteria per l'occhio particolare che aveva già nei confronti del ritmo. Il primo concerto al Canterbury College of Art, la scuola dove lui insegna e da dove proviene la metà della band. Feci una cosa di buon senso. Andai in segreteria scolastica e chiesi cosa facessero per Natale. Mi dissero il programma e io chiesi di essere infilato dentro. E mi risposero: certo, potreste essere una buona risorsa, vi mettiamo nel concerto. E io dissi di sì. E questo è stato l'inizio. Così i Kilburn iniziano a ritagliarsi un primo circuito tra pub, bar. Il primo album vede la luce solo anni dopo, nel 75. Hanno fatto canzoni belle, sanno il fatto loro, ce lo racconta il loro produttore, il critico musicale Charlie Gillett. Creation of the music in Kilburn Highway was this kind of struggle between... Per i Kilburn, la creazione musicale era una lotta continua fra limiti effettivi, tentativi di nasconderli e l'imbarazzo che provavano per questo fatto. Al tempo stesso, però, era anche un veicolo per alcuni ottimi musicisti. Il pianista dei Kilburn, Russell Hardy, era incredibilmente dotato. Poteva suonare come un jazzista e poteva suonare il pop. Per lui non faceva alcuna differenza. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di un grande del punk, Ian Dury, il musicista inglese celebre per alcune canzoni che hanno fatto parte della storia, come Wake Up and Make Love With Me, ma soprattutto come Sex and Rocks and Rock and Roll, il suo manifesto. Ian Dury è un provocatore, è molto istrionico, è ruvido, è forse una reazione dovuta all'infanzia dura trascorsa prima in un istituto di riabilitazione a causa della poliomielite presa a 7 anni, e poi per gli anni passati in collegio, unico disabile su 800 ragazzi, e lui che reagisce alla violenza con la violenza, che si trasforma in un bullo dalla pelle dura, e che gioca con un'immagine di sé rozza e volgare anche ben oltre i suoi studi che comunque ha fatto. È uno che parla con uno strettissimo accento cockney, con un'aria sporca, abrasiva, non accomodante. Ecco come lo ricorda Charlie Gillett, il produttore della sua prima band, Kilburn and Highroads. Ian era determinato a non essere artificiale. Per questo tendeva a essere molto più volgare. Ma i musicisti che conosceva originariamente erano musicisti jazz. Quindi era una lotta continua, perché i musicisti jazz pensano di saperne di musica, cioè ne sanno. Ma Ian non considerava la conoscenza musicale particolarmente rilevante. Dopo essersi fatto le ossa con i Kilburn and Highroads, gruppo nato nel 70, comincia a muoversi, diciamo, con le sue gambe, anche se la battuta può sembrare infelice. Però Ian Dury ha già quasi 30 anni e intanto si tengono le prove a casa sua, mentre la moglie Betty è già incinta del secondo genito, ce lo racconta Russell Hardy, il pianista dei Kilburn. She had to come downstairs. Scendeva giù e ci diceva di fare silenzio perché voleva dormire dopo aver dato alla luce Baxter. E la povera Betty comincia veramente a sopportare molte cose, non solo le prove ma anche i continui tradimenti di lui. Insomma, la situazione diventa insostenibile, la coppia si separa, lei si trasferisce in provincia e sopravvive grazie a quel poco che il marito le manda ogni tanto, e insieme anche a parte del suo sussidio di invalidità. Ian ormai è libero da impegni, si dedica alla musica, ma dopo un secondo album con i Kilburn deve affrontare la realtà. Il gruppo non è decollato e non decollerà più, si scioglie nel 75, e per Ian la prospettiva è quella di una carriera finita prima ancora di essere cominciata. È anche quello che dice Peter Jenner, che diventerà il suo manager. I Kilburns erano praticamente finiti e Ian era visto dalla stampa musicale e dal business in generale come qualcuno che aveva avuto la sua occasione e se l'era giocata. Poi arriva questo ragazzino ebreo, borghese, educato, che si rivela essere un genio con la melodia e la composizione. Era proprio quello di cui aveva bisogno Ian, ma il suo primo istinto è stato quello di dire a Chaz di andare a farsi fottere. Questo è Ian, in poche parole. La fine dei Kilburn non estingue la sete artistica di Ian. Siamo nel 77, siamo in piena era punk, è un boccone troppo ghiotto per lui, uno come lui che è sempre controcorrente, che è violento, irriverente, un animale da palcoscenico, è l'espressione perfetta del movimento che scuote l'Inghilterra perbenista e tradizionalista. Lui è un punk anche prima del punk, non sa di esserlo ma lo è già, e così nasce un nuovo gruppo, i Blockheads, che vuol dire teste di legno per non dire di peggio, dove militano musicisti provenienti da varie band e un giovane genio musicale, si chiama Chas Jenkel, è uno che ci sa fare e che in coppia con Dury comincia a produrre delle canzoni interessanti. Quando Chaz mise le mani sui Blockheads li trasformò in questa incredibile macchina musicale, e a quei tempi questa abilità musicale era davvero notevole, quasi non esisteva, ed è stato a questo punto che hanno iniziato a uscire fuori quel tipo di dischi. E la coppia funziona, arriva alla Stiff Records, che è un'etichetta mitica di quegli anni, c'è già Elvis Costello alla Stiff Records, ci sono un sacco di punk. Esce così New Boots and Panties, che è il primo disco di Ian Dury con i Blockheads, che non sono ancora accreditati come band, ma in realtà band sono già di fatto. All'inizio Ian Dury considera Chaz solo un pischello, lo tratta male, con le sue solite maniere da bullo, ma ha il gusto di rivedere il suo giudizio, l'acume di capire che ha bisogno di un musicista vero. Chaz Jenkel suona il pianoforte, suona le tastiere, scrive canzoni, e arrivano Wake Up and Make Love With Me, ma soprattutto arriva quello che diventerà l'inno di una generazione almeno, Sex and Drugs and Rock and Roll. It's going to fit. E così Ian Dury arriva al successo, ma è un punk anomalo. Intanto ha 35 anni, è poliomielitico, sul palco è istrionico, ma non è certo super fisico come un Joe Strummer o un Sid Vicious, e arriva al successo, come abbiamo detto, molto tardi. Ha scritto questa canzone nell'appartamento di Ian Dury, ribattezzato Catch It Mansion, cioè la magione merda di gatto. E il disco vende parecchio e Dury viene considerato subito una figura importante del panorama punk. Si traveste sul palco, indossa orecchini con le lamette appese, si dipinge il volto, offre un'immagine che è un misto tra il punk e il presentatore del cabaret dove lavora Liza Minnelli nel film. As we all know, he was a great kind of showman. Come tutti sappiamo, era un grande showman, aveva un sacco di idee sugli oggetti di scena, sulle cose da fare, aveva opinioni forti e a volte era davvero davvero difficile andarci d'accordo. Eh sì, lui ha un carattere particolare, ne sanno qualcosa quelli più vicini a lui, il figlio Baxter, che peraltro è il bambino presente sulla copertina di New Boots and Panties, è costretto a convivere in una casa che diventa un porto di mare, o quelli che finiscono sotto le mani della sua celeberrima guardia del corpo, tra questi anche si racconta un malcapitato Elvis Costello con cui Ian Dury ha un rapporto piuttosto complicato. Poteva essere acido ed emotivo Ian, sai, come qualche bicchiere di troppo, tarda notte, un po' di marijuana, e alla fine diventava un uomo difficile. Però c'è qualcosa su cui lui non perde mai la bussola ed è molto acuto, sono i suoi testi, perché lui ha humor, ha profondità, intelligenza, e non ha paura a descrivere la vita della working class inglese, la vita degli emarginati, e lo fa senza pietà, attraverso vizi, sbruffonate, usando quella che è l'arma dei grandi artisti, cioè il cinismo, che a piccole dosi è fondamentale per qualsiasi grande opera artistica. Nel frattempo ha una nuova ragazza, si chiama Denise Rudet, e lei ci racconta uno Ian che è improvvisa meno di quello che si possa pensare. Era metodico in realtà, non di quelli che venivano colti dall'ispirazione «Ah, adesso scrivo una canzone». In realtà le costruiva verso per verso, metodicamente. Era così che funzionavano i suoi testi. E New Boots and Panties arriva al quinto posto della classifica inglese, conquista un disco di platino. E sì, perché ci sono stati anni in cui uno faceva dischi meravigliosi e andava anche in classifica. Adesso in genere succede l'opposto, o fai il disco brutto e vai in classifica o viceversa. Ma comunque la sensazione è inebriante, ce lo sottolinea anche uno dei componenti del vecchio gruppo dei Kilbourne, lui si chiama Humphrey Ocean. La trasformazione era completa, totale. Ian era rilassato. Alla fine i Blockheads gli avevano dato un'arena nella quale poteva essere se stesso. E poi coi Blockheads arrivano altri due dischi: Do It Yourself, che raggiunge il secondo posto in classifica, e Laughter, che contengono brani come Reason to be Cheerful e come soprattutto Hit Me with Your Rhythm Stick. Hit Me fu il punto più alto. Avrei dovuto fermarmi allora e abbandonare e tirarmi su con lo spirito. Decisamente tirarmi su, perché ero molto stanco. Lo eravamo tutti, tutta la band. Ma poi non era così facile, perché c'era tutta questa pressione. È tutta una questione di essere famoso, perché ti abitui a queste cose. È difficile smettere. E così non ho smesso. Ma le tensioni interne al gruppo cominciano a aumentare con il passare del tempo, e soprattutto, ahimè, con Chas Jenkel. Alla fine lui lascia il gruppo e continua la sua carriera da solo negli Stati Uniti. Le ragioni ce le spiega il manager di Blockheads, Peter Jenner. C'era una grande pressione per il grande costo sostenuto per ogni disco e per tutti i soldi che venivano pagati. E tutto questo genere di cose si scontrava con l'approccio essenzialmente personale che Ian aveva quando scriveva le sue canzoni. E dunque il conflitto era inevitabile. Insomma, nell'82 ognuno va per la sua strada, e per Ian Dury la perdita di Chas Jenkel si fa sentire. Esce Spasticus Autisticus, un disco duro, per niente compiacente, peraltro forse la cosa più bella dell'intero album è proprio il titolo. E poi c'è questo singolo che è una denuncia contro il buonismo di iniziative come l'Anno Internazionale delle Persone Disabili, e naturalmente un atteggiamento del genere gli procura subito l'ostracismo da parte della BBC, che lo considera oltraggioso. E poi Ian Dury mette anche accanto alla musica la vecchia passione per la recitazione, partecipa a una miniserie per la BBC, The King of the Ghetto, con un giovane Tim Roth, e va al cinema, nel senso che va a recitare al cinema nel film bellissimo del famoso regista Peter Greenaway, Il cuoco e il ladro, sua moglie e l'amante, film che vi straconsiglio. E continua insomma a essere un provocatore. Poi rifiuta la proposta di Andrew Lloyd Webber a scrivere il libretto per il musical Cats. Avrebbe fruttato milioni questa idea, ma lui dice: odio Andrew Lloyd Webber perché è un coglione, ogni volta che sento Don't Cry For Me Argentina mi sento male. Insomma, è una ipotesi anche abbastanza condivisibile, almeno su questa canzone. Nel 96 gli viene, ahimè, diagnosticato un cancro al colon, viene operato, dopo un po' il tumore arriva al fegato, gli viene detto che non ci sono più speranze, ma lui è un duro, resiste ancora 4 anni, e nel frattempo per una volta si comporta da signore, sposa la sua ultima compagna da cui ha avuto altri 2 figli. Nel 98 Bob Geldof per sbaglio annuncia la sua morte, e lui, giusto per dispetto, dura ancora 2 anni. E poi arriva il suo capolinea, 27 marzo del 2000, un mese prima del suo 58esimo compleanno, Ian Dury muore, e noi speriamo che la sua vita dopo la vita sia piena di sex, drugs e rock and roll come quella che ha vissuto nella sua parte terrena. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che nella loro vita hanno saputo darlo questo colpo d'ala, hanno volato in alto. Ian Dury è arrivato al successo non subito, ma in qualche modo si è preso delle belle rivincite, innanzitutto nei confronti della natura e poi nei confronti di tutti quelli che in qualche modo avevano cercato di far sì che lui non spiccasse quel volo. E il punk intero lo ringrazia perché ha lasciato delle pagine meravigliose, soprattutto in quegli anni, negli anni della Stiff Record, negli anni del grande punk di fine anni 70 nella Londra che tanto abbiamo amato. E se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al Falco e il Gabbiano @radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi, a trovarci sui miei social, sui nostri Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Guess what? I wanna be straight.